ad alta voce. Elia Shilton legge Anton Chekhov. Dušečka. Olienka, la figliuola dell'assessore in pensione Plemiannikov, se ne stava sul pianerottolo all'ingresso di casa sua, tutta pensosa. In mezzo al recinto antistante alla casa stava piantato Kukin, impresario e direttore del parco di divertimenti Tivoli, il quale aveva preso in affitto un appartamento appunto qui nel recinto, nel padiglione, e veniva osservando il cielo. «Un'altra volta!» diceva in tono disperato. «Un'altra volta vuol piovere! Tutti i giorni pioggia, tutti i giorni pioggia, nemmeno a farla apposta! Ma sapete che questo è un laccio al collo? Sapete che questa è una rovina? Tutti i giorni sono perdite tremende!» Egli batté una mano contro l'altra e seguitò rivolgendosi ad Olienka. «Eccovi qua, Olga Semyonovna, che vita è la nostra! Verrebbe da piangerci!» Lavori, tarabatti, ti tormenti, la notte non dormi, sempre a pensare come far meglio. E poi, da una parte il pubblico, ignorante, selvatico. Io gli presento le più belle operette, le migliori ferie, i più squisiti couplettisti. Ma che forse è questa la roba di cui vai in cerca? Che forse ci capisce qualcosa? Il pubblico vuole il baraccone, a quello dagli le porcherie che sarà contento. Dall'altra parte, poi, guardate a questo tempo. Quasi non passa sera che non piova. Il pubblico non viene, ma io, non è vero, l'affitto lo pago, gli artisti li pago. Il giorno appresso, verso sera, da capo le nuvole salivano su da Levante e Kukin diceva con uno sghignazzo isterico. Ebbene, dunque, giù, dagli giù, giù, dovesse sommergere tutto il parco e me stesso insieme. Che io non possa aver mai fortuna né in questo mondo né in quell'altro, che gli artisti mi citino in tribunale. E cos'è mai il tribunale? Ma andassi addirittura ai lavori forzati in Siberia, andassi addirittura sul patibolo, E il terzo giorno, la stessa storia. Olienka stava a sentir Kukin in silenzio, con la più gran serietà, e a volte le lacrime le spuntavano negli occhi. In fondo le disavventure di Kukin la commuovevano, affezionata come si era a lui. Era un uomo di bassa statura, emaciato, giallo in viso, coi ciuffi ben pettinati alle tempie, e parlava con un'esile vocetta tenorile, e parlando storceva la bocca, e sul viso aveva sempre dipinto un'espressione di disperazione. Eppure costui aveva destato in lei un sentimento serio, profondo. Di continuo essa amava qualcuno, né poteva farne a meno. Prima era stata innamorata del suo papà, che ora, infermo, non si muoveva più da una stanza buia dalla sua poltrona e respirava affannoso. Era stata innamorata di una zia che ogni tanto, una volta ogni due anni, veniva qui da Bryansk. E prima ancora, quando era studentessa di proginnasio, era stata innamorata del suo professore di francese. Era una cheta, bonaria, compassionevole signorina dal mite, morbido sguardo, in possesso d'un'ottima salute. La casa in cui essa abitava fin dalla nascita e che nel testamento era assegnata a lei, si trovava al margine della città, nel sobborgo degli Zingari, non lontano dal parco Tivoli, cosicché nelle ore serali notturne ne giungeva all'orecchio dal parco il suono della musica e lo scoppio e il crepitio dei fuochi d'artificio. E a lei sembrava che, ecco, Kukin stesse combattendo col suo destino e prendendo d'assalto il suo principale nemico, l'indifferenza del pubblico, e il cuore le si struggeva dolcemente e di dormire le passava ogni voglia. Egli le chiese la mano e senz'altro si sposarono. E quando lo sposo ebbe visto come si deve quel collo e quelle spalle piene, spiranti salute, batté una mano contro l'altra e proruppe: «Ah, la mia Dušečka!» Era felice, ma siccome il giorno del matrimonio e poi la notte piovve, non gli si levava dal viso l'espressione di disperazione. Dopo il matrimonio ebbero un buon periodo. Lei gli badava alla cassa, vigilava sull'andamento del parco, teneva i conti, versava gli stipendi e le sue rosee gote, l'amabile, ingenuo sorriso simile a uno sprazzo di luce, balenavano ora allo sportello della cassa, ora dietro le quinte, ora al buffet. Ed essa veniva già dicendo ai conoscenti che la cosa più degna d'attenzione, la più importante, l'essenziale fra tutte, era a questo mondo il teatro, e che ritrarre un vero piacere ed evolversi e farsi umani era possibile solo frequentando il teatro. «Ma credete che il pubblico intenda questo?» soggiungeva. «Per il pubblico ci vuole il baraccone. Ier sera da noi altri si dava il Faust travestito e quasi tutti i palchi erano vuoti, mentre se io e il mio Vanichka avessimo presentato una porcheriola qualsiasi, il teatro sarebbe stato pieno. Domani io e Vanichka mettiamo in scena l'Orfeo all'inferno, non mancate!» E tutto ciò che diceva del teatro e degli attori Kukin, punto per punto lo ripeteva lei. Anche lei, né più né meno che lui, disprezzava il pubblico per l'indifferenza all'arte e per l'ignoranza. Gli attori le volevano bene e la chiamavano Io Ivanichka oppure Dushechka, giacché essa era pietosa con loro e concedeva loro piccole somme in prestito, e se avveniva che la ingannassero, non faceva che piangere chiotta chiotta senza andare a lamentarsene col marito. Anche al sopravvenir dell'inverno se la passarono bene. Presero in affitto il teatro della città per tutta l'invernata e lo concedevano per brevi cicli di rappresentazioni, ora a una compagnia di piccoli russi, ora a un illusionista, ora ai locali filodrammatici. Olienka si faceva man mano più grassa ed era tutta raggiante di soddisfazione, mentre al contrario Kukin si faceva man mano più magro e più giallo, e sempre si lamentava di tremendi disavanzi, benché per tutto il corso dell'inverno gli affari andassero tutt'altro che male. Di Quaresima egli partì per Mosca con l'intenzione di raccogliere una compagnia, e durante l'assenza di lui essa non riusciva più a dormire, stava sempre seduta alla finestra e guardava alle stelle. Kukin a Mosca s'attardava e scriveva che sarebbe di ritorno per la Settimana Santa, ma nelle lettere dava fin d'ora nuove disposizioni per il suo Tivoli. Se non che, il lunedì di Passione, a tarda sera, d'improvviso rimbombò un furioso picchiare giù al portone. Qualcuno batteva contro l'usciolo come contro una botte. «Bum, bum, bum, bum! Aprite, per favore!» diceva qualcuno di là dal portone con cupa voce di basso. «C'è per voi un telegramma!» Olienka aveva altre volte ricevuto telegrammi dal marito, ma ora, senza saper perché, rimase impietrita. Con mani tremanti dissuggelò il telegramma e lesse quanto segue. «Ivan Petrovich espirato oggi improvvisamente. Sopracché aspettiamo disposizioni. Lunerali martedì». Così portava scritto il telegramma, «lunerali». E quell'altra incomprensibile parola, sopracché. La firma era del regisseur della compagnia d'operette. «Tesoro mio!» ruppe in singhiozzi Olienka Vanichka. «Mio caro, povero tesoro mio! Ma perché dunque mi sono incontrata con te? Perché t'ho conosciuto e mi ti sono affezionata? In che mano, a chi l'hai lasciata la tua misera Olienka? Misera e disgraziata!» Kukin fu seppellito il martedì a Mosca nel camposanto di Bagankova. Il giovedì Olienka fu di ritorno a casa e non appena si trovò nelle sue stanze, si gettò lunga sul letto e ruppe a singhiozzare così forte che la sentivano fin dalla strada e dai cortili adiacenti. 3 mesi dopo, Olienka un giorno tornava dalla messa, afflitta, in lutto stretto. Per combinazione si trovò a far la strada con lei, di ritorno anch'egli dalla chiesa, uno dei suoi vicini, Vasilij Andreich Pustovalov, soprintendente del deposito di legna del mercante Babakayev. Aveva costui un cappello di paglia e un gilet bianco con la catena d'oro e rassomigliava piuttosto a un possidente che a un commerciante. Per ogni cosa C'è un ordine, Olga Semyonovna, diceva l'uomo tutto compunto in tono di partecipare ai sentimenti di lei, e se qualcuno dei nostri cari viene a morire, significa che così piace a Dio, e noi in questo caso dobbiamo farcene una ragione e sopportare con rassegnazione. Accompagnata Olienka fino all'usciolo di servizio, egli si congedò e proseguì oltre. Ma da quel momento, per tutta la giornata, lei si sentì nell'orecchio quella voce compunta e bastava che socchiudesse le palpebre perché le riapparisse la sua barba scura. Egli le era assai piaciuto e, a quanto pare, anche lei lo aveva colpito, giacché di lì a poco le venne in casa a prendere il tè una certa signora in età che conosceva appena, la quale non s'era ancora seduta al tavolino e già aveva portato il discorso su Pustovalov, dicendo che buon uomo, che uomo positivo era quello e quanto volentieri lo avrebbe preso per marito qualsiasi ragazza. 3 giorni dopo venne a far visita Pustovalov in persona. Si trattenne brevemente una 10 di minuti e non parlò molto, ma Olienka se ne innamorò in modo che passò tutta la notte senza dormire e bruciava come se avesse la febbre, finché al mattino mandò a chiamare la signora in età. In breve tempo il matrimonio fu combinato e sposarono. Pustovalov e Olienka, una volta sposati, se la passarono bene. Egli di solito si tratteneva al deposito della legna fino all'ora di desinare, quindi andava in giro per affari e allora lo sostituiva Olienka, che rimaneva lì in ufficio fino a sera, registrando le entrate e le uscite e vendendo la merce. Ormai il legname d'anno in anno rincara in misura del 20%, veniva dicendo ai compratori e ai conoscenti. Vogliate riflettere soltanto questo, che prima noi altri si trafficava in legname locale, ora invece il mio Vasichka deve tutti gli anni andare a procurarsi il legname nel governatorato di Maghiliov. E che razza di tariffe! Esclamava, e in atto di terrore si copriva le 2 gote con le mani. Che razza di tariffe! Essa aveva l'impressione di star trafficando il legname da chissà mai quanto tempo e che nella vita la cosa più importante ed essenziale fosse il legname. E una risonanza familiare, toccante, avevano in lei quelle parole: corrente, passone, assicella, murale, cascina, sciavero. Gli stessi pensieri che aveva il marito li aveva lei. Se quello pensava che nella stanza faceva caldo o che gli affari ora erano in ristagno, così pensava anche lei. Al marito non piacevano divertimenti di sorta, tanto che i giorni di festa li passava in casa e lei faceva altrettanto. «Ma voi sempre in casa o all'ufficio?» esclamavano i conoscenti. «Potresti andare a teatro, Dushechka, oppure al circo?» «Io e Vasichka non abbiamo tempo di bazzicare i teatri», rispondeva lei tutta compunta. «Noi siamo gente d'affari, abbiamo altro per capo che certe sciocchezze. In codesti teatri che volete trovarci di buono?» Quando era il sabato, Pustovalov e lei si recavano ai Vespri, le domeniche alla prima messa e di ritorno dalla chiesa facevano la strada fianco a fianco con certi visi inteneriti. Da tutte e due spirava un sentore di buono e a lei l'abito di seta faceva un gradevole fruscio. Giunti a casa prendevano il tè con la pizza dolce e con marmellate svariate, quindi mangiavano il timballo. Una volta alla settimana i coniugi si recavano al bagno turco e ne tornavano fianco a fianco ugualmente rossi. Così continuarono a vivere i Pustovalov, chetamente e placidamente, nell'amore e nell'accordo più perfetti per lo spazio di 6 anni. Ma ecco che una volta d'inverno Vasilij Andreich, trovandosi al magazzino e avendo bevuto del tè bollente, uscì senza cappello all'aperto per vendere certo legname. Si raffreddò e cadde ammalato. Fu preso in cura dai migliori dottori, ma il male ebbe il sopravvento ed egli morì dopo 4 mesi di letto. E Olienka in tal modo fu di nuovo vedova. Mise l'abito da lutto con le pleureuse, rifiutando per sempre cappello e guanti. Usciva di casa raramente, soltanto per andare in chiesa e sulla tomba del marito, e viveva sempre chiusa come una monaca. Solo quando furono passati 6 mesi si tolse le pleureuse e cominciò a riaprire alle finestre gli scuri. Allora di quando in quando la si rivide il mattino per tempo recarsi a far la spesa al mercato con la cuoca, ma che vita facesse ora e che cosa avvenisse nel segreto di casa sua non poteva essere oggetto che di congetture. Qualche congettura, per esempio, si poteva trarre dal fatto che era stata vista nel suo giardinetto prendere il tè col veterinario e costui ad alta voce leggerle il giornale, nonché dall'altro fatto che, incontratosi alla posta con una signora di sua conoscenza, ella aveva detto: «Nella nostra città non esiste una vigilanza veterinaria ben organizzata e di qui derivano una quantità di malattie. Non passa giorno che non si senta dire che qualcuno si è ammalato per via del latte o ha preso un'infezione dalla carne di cavallo o di vacca. Della salute degli animali domestici bisogna darsi in realtà altrettanto pensiero quanto della salute della gente». Essa veniva ripetendo i pensieri del veterinario e su qualsiasi argomento ormai era dello stesso parere di lui. Evidentemente non le era possibile vivere neppure lo spazio di un anno senza affezionarsi a qualcuno, e aveva trovato la sua nuova felicità nell'interno stesso di casa sua, al padiglione. Quando dal veterinario venivano in visita i colleghi di reggimento, ella, nel mescere il tè o nel dar loro da cena, subito cominciava a parlare della peste bovina, delle tisi, delle vacche, dei mattatoi cittadini, mentre lui si confondeva tutto e, quando gli ospiti se n'erano andati, la afferrava per il braccio e le soffiava all'orecchio, stizzito. Eppur t'ho già pregato che non parlassi di ciò che non puoi capire. Quando noi altri veterinari stiamo discorrendo fra noi, tu fai il favore di non metter bocca, è una cosa noiosa alla fin fine. Essa allora gli dava un'occhiata sconcertata, allarmata, e gli chiedeva: «Valatichka, e di che altro dovrei dunque parlare?» E con gli occhi pieni di lacrime lo abbracciava, lo pregava che non si inquietasse finché tutte e due tornavano felici. Ma questa felicità però non durò a lungo. Il veterinario dové partire col suo reggimento, partire per sempre, già che il reggimento era stato trasferito in un luogo assai lontano di lì, per non dire in Siberia, e Olienka restò sola. Ma soprattutto, e questa era la cosa peggiore, non aveva più ora opinioni di sorta. Si vedeva intorno questo o quell'oggetto e comprendeva tutto ciò che gli si svolgeva intorno, ma di nulla riusciva a formarsi una qualche opinione e non sapeva di che dovesse parlare. E che cosa tremenda questa, non aver nessuna opinione. La città, intanto, andava via via allargandosi da tutti i lati. Il sobborgo degli Zingari era ormai considerato una via cittadina, e nel luogo dove erano stati il Tivoli e il magazzino del legname erano già sorte tutte case e si era formata una rete di vicoli. Come fa presto a passare il tempo. La casa di Olienka si era fatta scura, il tetto si era arrugginito, la scuderia pencolava da un lato e tutto il terreno del cortile si era infoltito d'erbacce e d'ortica. La stessa Olienka si era invecchiata, si era imbruttita. L'estate si metteva là, sul pianerottolo, all'ingresso di casa, e nell'anima aveva il solito vuoto, il solito squallore, il solito sentore d'assenzio. L'inverno se ne stava seduta presso la finestra e rimirava la neve. Certi momenti, a una litare di primavera, o quando le giungeva sul vento il suono delle campane della cattedrale e improvvisi sprizzavano i ricordi del passato, il cuore le si struggeva di dolcezza e dagli occhi le sgorgavano abbondanti le lacrime. Ma questo non durava più di un istante e subito tornava il vuoto, tornava quel senso di non saper perché vivi. E così, un giorno dopo l'altro, un anno dopo l'altro, senza mai un po' di gioia e senza mai nessuna opinione, quel che diceva Mavra la cuoca, quello andava bene. Un'ardente giornata di luglio, sul far della sera, mentre per strada riportavano dal pascolo il gregge municipale e tutto il cortile qua dentro s'era riempito di nuvoli di polvere, d'improvviso qualcuno bussò all'usciolo del portone. Olienka andò lei stessa ad aprire e, come alzò gli occhi, così restò impietrita. Sulla soglia stava ritto Smirnin, il veterinario, incanutito ormai e in divisa da impiegato civile. A lei, di colpo, risovvenne di tutto. Non poté frenarsi, scoppiò in lacrime e gli appoggiò la testa sul petto senza dire neppure una parola, ed era tanto agitata che non s'accorse come fossero entrati tutti e due insieme in casa e si fossero seduti a prendere il tè. «Tesoro mio!» mormorava lei, tremando d'esultanza. «Vladimir Platonich, ma di dove vi conduce Dio?» «Ho intenzione di stabilirmi qui definitivamente», spiegava lui. «Sono andato a riposo ed eccomi venuto qui a sperimentare la felicità d'esser libero, a vivere d'una vita fissa. E poi c'è mio figlio che ormai è tempo di mandarlo a ginnasio, si è fatto grande. Quanto a me, sapete, mi sono rappacificato con mia moglie». «E lei, dunque, dov'è?» domandò Olienka. «Lei sta col figliuolo all'albergo, intanto che io, ecco qua, vado in cerca in giro d'un appartamento». «Ah, signore benedetto, ma prendetevi addirittura casa mia, altro che un appartamento! Ah, signore!» s'agitò Olienka e da capo ruppe in lacrime. «Sistematevi qui e io del padiglione ne avrò anche di troppo! Ah, che felicità, signore!» L'indomani avevano già dato mano a verniciare sulla casa il tetto e ad imbiancare le pareti, e Olienka con le mani sui fianchi girava qua e là per il cortile e impartiva ordini. Sul viso di lei era tornato a brillare l'antico sorriso e tutta, da capo a piedi, aveva ripreso brio, era ringiovanita da sembrare che si fosse destata da un lungo sonno. Sopravvenne la moglie del veterinario, magra, brutta signora dai capelli corti e dall'espressione bisbetica. E insieme con lei c'era il ragazzo, Sasha, assai piccolino per la sua età, già che era già nei 10 anni, grassoccio, con 2 limpidi occhi azzurri e le fossette alle gote. Olienka chiacchierò con lui, gli fece prendere il tè e nell'intimo il cuore le riacquistò un calore improvviso e le si struggeva dolcemente come se quel bambino fosse un figliuolo suo carnale. E quando la sera egli, installandosi in sala da pranzo, ripeteva le sue lezioni, lei lo guardava tutta intenerita e pietosa e mormorava: «Piccioncino mio, omettino bello, figliolino mio caro, ma guarda che omettino intelligente devi essere venuto e che carni bianche! Si chiama isola», leggeva lui, «una porzione di terra asciutta che da tutte le parti è circondata dall'acqua». «Si chiama isola, una porzione di terra asciutta», ripeteva lei. E fu questa la prima opinione che formulasse con sicurezza dopo tant'anni di silenzio e di vuoto mentale. Sasha entrò al ginnasio. Sua madre, partita per Charkov a trovare una sorella, non ne faceva ritorno. Il padre quotidianamente andava in giro di qua e di là a visitare gli allevamenti e spesso rimaneva assente da casa fino a 3 giorni di fila. E ad Olienka veniva a sembrare che Sasha fosse completamente abbandonato, che fosse un peso inutile per i suoi, che morisse di fame. E se lo portò con sé nel padiglione e lo sistemò lì in una piccola cameretta. Ed ecco ormai sono già 6 mesi che Sasha vive presso di lei nel padiglione. Tutte le mattine Olienka entra in camera sua. Lui dorme sodo, con una mano sotto la gota, senza respirare. A lei rincresce svegliarlo. «Sashenka», dice in tono addolorato, «alzati, tesoro, è ora d'andare al ginnasio». Quello si leva, si veste, fa la preghiera, poi si mette a tavola a prendere il tè. Vuota 3 bicchieri di tè e si mangia 2 grossi croccanti, più un mezzo pane francese di quelli all'olio. Non si è ancora completamente riscosso dal sonno e perciò sta un po' di malumore. Attento, Sashenka, che non la sai troppo bene, la favola, gli dice Olienka, e gli dà un'occhiata come se lui stesse sul punto di separarsi da lei chissà per quale viaggio. Sei un bel pensiero tu per me. Guarda un po' di fare uno sforzo, tesoro mio, di studiar bene e sii obbediente coi professori. Ah, finitela, vi prego, risponde Sasha. Dopodiché esce di casa diretto al ginnasio, piccolino di persona, ma con tanto di berrettone e con lo zaino sulla schiena. Alle sue calcagna, senza far rumore, segue Olienka. Accompagnato Sasha al ginnasio, riprende la strada di casa ad agio, piena d'una soddisfazione, d'una pace, d'un amore sovrabbondante. Il viso che le si è ringiovanito in quest'ultimo mezz'anno le sorride, le risplende. I passanti, guardando a lei, ne ritraggono un senso di piacere e le dicono: «Buongiorno, Dushechka Olga Semyonovna! Come va? Come va la nostra Dushechka?» «Sono diventati difficili adesso gli studi ginnasiali», si fa a spiegare lei in mezzo al mercato. «Ah! Che vi pare uno scherzo? Ieri alla prima classe han dato una favola a memoria, poi una traduzione latina e in più un problema. Ma ditemi un po' come deve fare un povero piccino!» E si mette a discorrere dei professori, dei compiti, dei manuali scolastici, dicendone le stesse cose precise che le dice Sasha. Alle 3 tutte e due insieme mangiano, alla sera tutte e due insieme sbrigano i compiti e piangono. Mettendo a letto il ragazzo, ella dura un pezzo a fargli segni di croce e a sussurrar preghiere. Poi, coricandosi, fantastica di quell'avvenire lontano e nebbioso in cui Sasha, terminata l'università, diventerà dottore o ingegnere e avrà una gran casa di suo e cavalli e carrozza e prenderà moglie e gli nasceranno dei figli, sta sul punto di addormentarsi e ancora il pensiero le sta lì e le lacrime le scorrono per le gote giù dagli occhi socchiusi. Di soprassalto un gran colpo al portone. Olienka si sveglia e dal terrore non respira. Il cuore dentro le batte forte. Passa un mezzo minuto e un altro colpo. Certo, è un telegramma di Charkov, dice a se stessa, mentre la assale un tremito da capo a piedi. È la madre che vuol Sasha con lei a Charkov. Oh, Dio mio! In preda alla disperazione, un gelo le invade la testa, i piedi, le mani, e ha l'impressione che più infelice di lei non ci sia nessuno su questa terra. Ma passa ancora un minuto e risuonano delle voci. E il veterinario che rincasa dal club. Ah, oh, Dio sia ringraziato, pensa lei. Dal cuore a poco e si toglie quell'oppressione e di nuovo si sente leggera. Si stende giù e si raccoglie col pensiero su Sasha che dorme sodo nella camera accanto e che di tanto in tanto prorompe in sogno: «Te la do io! Levati, levati dai piedi! Fermo, fermo con le mani! Te la do io!» Elia Shilton ha letto Anton Chekhov, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it